Buongiorno. Ci incamminiamo. Ok. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Percorreremo sentieri cupi e ritmati. Agoso. No, ma io quando sento questi ritmi qua. Quando sento questi ritmi qua. Non capisco più niente. Sono Valerio da Modena. Gigi, mi faresti sentire la tua canzone che pompa? Oh. No, che pompa di più. Pompa di più. Pompa di più. Pompa di più. Pompa di più. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente. È il seguente. È il seguente. È il seguente. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Lori, Gigi, hai una voce fantastica. Grazie per queste tue canzoni. Ogni volta che le ascolto mi fai sognare. Oh, leggetelo, eh? Sì. Leggetelo. Leggetelo. Leggetelo. Leggetelo. Dai e botti le matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto, matto. D'Agostino. Batte forte. Batte. Bat, bat, forte. Battere. Batte. Forte. È vero, è vero. We don't let them go. Ci sono anch'io, eh? Sì, vabbè. Lavora. Eccomi. Magari non ve ne siete accorti, ma il lento violento vi ha già travolti. Sì, sì. Vi ha già travolti. Il momento è tremendo. Lento violento. Lento violento. Lento violento. Lento violento. Lento violento. Lento violento. Saluto da Fabio e Giada. Gigi, continua così e vieni a Torino a trovarci. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. E vieni a Torino. Sono Francesca da Torino. Willy. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Sono Fabio. Sono in macchina con mio figlio Samuel che balla e mia moglie Stefania. Volevo dire che li amo tutti e due. Un bacio. Di Savona a Vado Ligure, discoteca Disco Disco. Per le informazioni dettagliate, chiappate le dita e digitate www.gigidag.com pom pom pom pom pom. E cercate il forum, entrate nel forum e cercate il topic dedicato a questa serata. Zio Gigi, sono Veronica da Pio Sasco. Sono stupende le tue cuffie leopardate. Mi potresti mettere Per me amore, perché mi fa venire in mente un sacco di vecchi ricordi. Un bacio a tutti quelli di Pio Sasco. Sono Jessica, il tuo cammino è da sballo. Vorrei dedicare a Davide Per me amore, quella lì, eh. Questo qua, eh? E ricordargli quanto lo amo. Smack. Per Daniele, con cui ieri sarebbero stati 10 mesi. Per favore, Gigi, suona Per me amore e fallo tornare da me. È tanto importante. Gio TV. Sono Benedetta 88. Oggi, cioè il 29 settembre. A cosa? Quindi ieri? Compio 18 anni. Mi potresti fare gli auguri? Mi faresti molto, ma molto contenta. Metteresti Per me amore. Sono Jasmine. Voglio dedicare a Marco Per me amore, anche se lui continua a non credermi. 1000 baci. Sono Davide. Vorrei dedicare Per me amore alla mia adorata Barbara, che darà alla luce una splendida creatura. Sono Ale Bomb. Volevo dedicare Per me amore a Giulia, che è il sole dei miei giorni e la luna delle mie sere. Un bacio. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Quanto amore in quelle mani quando si stringono le mie. We'll be right back.

Puoi mettere Psicodag. Ovvio. È bellissima. Continua così nel tuo cammino, Gabriele. Ci fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Musica allo stato puro. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica. Musica. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Questo è il cammino di me medesimo D'Agostino. Oh già già. Sono Eugenio. E credo che la tua musica non solo unisce, ma fa impazzire il mondo. Ogni giorno arrivano moltissime dediche. Non è che posso leggerle tutte io. Io qua c'ho da suonare anche, non è che posso stare qui tutto il giorno a rigare i conchiglioni. Oh già già. Sono Lucas da Roma. Vorrei dedicare lo sbaglio a me stesso. Bravo. Sono Pier da Sassari. Voglio dedicare lo sbaglio a me. A me. A me. A me. Se dico fermate. Perché faccio sempre degli sbagli. Oggi è il compleanno del mio amore più grande. Capito. Mi puoi mettere un po' lo sbaglio? Giusto un po', eh. Ovvio. Da Eno. Ciao. Gigi, vorrei che dedicassi lo sbaglio ad una persona importante. Questo è importante. Perché è una delle canzoni che mi ha dato tanto in questo momento. Baci, Giada da Crotone. Sì, ma qual è la persona? È appunto. Così, per sapere. Volevo dedicare lo sbaglio a Fiammetta, in modo che rifletta sulla decisione che ha preso ieri. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi

solo Terence. Il 30 settembre compio 20 anni e da 10 ti ascolto. È troppo. Potresti regalarmi la mia canzone preferita, Canto d'Omar? Certo. Sono Aki. Fai gli auguri a Colle, che è il suo compleanno ed è un truzzo per eccellenza. Truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo, truzzo. Se volete scrivermi o mandare delle dediche, o che ne so. Ma che ne so, che cazzo. Non siamo al reparto olive. Il numero per gli sms è il seguente: 333-64-67-662. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no, se no, se no. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. La differenza la fa chi balla, chi non si muove una palla. M2O. www.gigidagostino.com. Com. piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Anzi, facciamolo là come ieri. Certo. Auguri di buon compleanno a Sabrina di Pistoia. Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Roby da Guidonia, Cristiano di Pordenone. L'appuntamento è in discoteca con le musiche e le storie suonate da me. Discoteca Disco Disco è in provincia di Savona, a Vado Ligure, ore 22:30. Stasera c'è Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Sono Jessica da San Damiano. Voglio dedicare Silence a Christian, anche se lui non sa chi sono. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un Siamo Andrea e Mauri. Ci fai ascoltare Silence? E questo è chiaro. Another time run to my heart. Lead your life into the destiny of love. Walk it hand in hand and there. Hold me tight. drive around all day long, listen to radio songs. I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk to you, a little help from the moon. Only a few words I will say, God help me, I have to pray. You want for your life. Shine on. Crazy diamond ring, don't you wanna marry me? In my heart a drum, there's only in my hand a gun. I'll take you home with me tonight. We'll get married in my dreams. Take me far away. Fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Siamo Simano che sta suonando Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Saluto da Ste alla Super Eli. Dedico il cammino alla mia Giulia, che è in macchina con me. Sono legato, frastornato, da una storia che non ha più storia, e mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, sangue c'è un valore che non va. forse l'altro che non mangia né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Sono il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldato. I miei ritmi. È in provincia di Savona, a Vado Ligure. Discoteca Disco Disco. Discoteca Disco Disco. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. È vero, è vero.